Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Oggi come oggi l'acquisizione di immagini e modelli tridimensionali è basata su un paradigma che prevede la pianificazione e la raccolta di dati ad hoc, attraverso quindi campagne di rilevamento che prevedono l'utilizzo di apparati costosi e tecniche di ripresa molto curate per assicurarsi per esempio che l'oggetto sia inquadrato da tutte le angolature necessarie per poterlo ricostruire. Da qualche tempo ci si è però resi conto che esiste un'alternativa radicalmente diversa, meno lineare senza dubbio ma molto più potente, che fa leva sull'enorme disponibilità di immagini bidimensionali già disponibili in rete, riprese dagli onnipresenti smartphone per esempio. Così è nato Harvest4D, un progetto di ricerca europeo che ha visto la partecipazione, la partnership del Visual Computing Lab dell'ISTI CNR, progetto che si è concluso lo scorso maggio e dei cui risultati decisamente affascinanti parliamo con Paolo Cignoni, primo ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione, Alessandro Faedo del CNR di Pisa. Buonasera Cignoni. Buonasera. Senta, allora, voi avete dovuto fare un'operazione davvero complicata, un po' come fare un collage con delle tessere che sono prese da puzzle diversi, di dimensioni diverse, con immagini ricavate in momenti diversi, da angolature diverse. Ci spiega come funziona? Sì, l'idea di fondo è quella di riuscire a costruire un oggetto tridimensionale a partire semplicemente da un grosso mucchio di fotografie, senza un ordine sistematico. E l'idea è che semplicemente all'interno di ogni coppia di fotografie, di questo grosso mucchio di fotografie, si va a cercare pezzetti delle immagini che siano simili e che corrispondano sperabilmente alla stessa porzione dell'oggetto che vogliamo ricostruire. E a partire dall'analisi di queste numerose coppie si riesce a dedurre quali fossero, senza saperlo a priori, le posizioni originali e relative delle macchine fotografiche che hanno scattato tutto questo mucchio di foto. E così uno riesce a, per alcune migliaia di punti per ogni immagine, ad avere una stima della posizione di piccoli pezzetti di ogni foto. Provo a dirla anche in un altro modo, diciamo che voi avete qui appunto questo mucchione di fotografie e vedete, confrontandole coppia a coppia, per esempio, che due fotografie riprendono l'orecchio di una statua del Duomo. Riconoscete che inquadrano la stessa cosa, non sapete esatto cosa inquadrano, no, ma sapete che inquadrano la stessa cosa da due angolature diverse. E voi cominciate a comporre l'oggetto a partire da questi frammenti. Esatto, a partire da una stima della posizione, certo, di questi frammenti. E questo ci dà una rappresentazione molto sparsa, approssimata dell'oggetto che stiamo pezzi che mancano, pezzi duplicati, esatto, no? C'è un po' di tutto. E poi in una fase successiva, a partire da questa rappresentazione sparsa di punti di cui abbiamo con una ragionevole certezza identificato la corrispondenza, si riesce a costruire una rappresentazione più densa e più accurata del modello stesso, ricostruendo per ognuna delle foto che abbiamo a disposizione, per ogni pixel di ogni foto, quale fosse la posizione originale nello spazio. Ecco, d'accordo. E genera una rappresentazione ragionevolmente accurata dell'oggetto ripreso da numerose foto. Ecco, quello che ci ha spiegato appare già straordinariamente complicato, ma non quanto lo è in realtà. Avete dovuto superare parecchie sfide per riuscire a fare questo lavoro. Ci faccia qualche esempio. Beh, una delle sfide è quella della scala del problema, perché gestire decine di migliaia di immagini significa che poi alla fine riesco a avere rappresentazioni composte da miliardi e miliardi di campioni e punti, e rappresentazioni tridimensionali di questa complessità non sono gestibili in maniera semplice, per cui uno deve trovare tecnologie per trattarle in maniera parziale. Come un po' come comprimerle, no? Come quando si comprime un file, si trova una, esatto, rappresentazione più sintetica del contenuto, e questo è uno dei problemi. Altri problemi sono semplicemente il fatto che l'apparenza degli oggetti non è costante, lo stesso oggetto non appare nello stesso modo colore, ad esempio, in differenti momenti della giornata o semplicemente anche guardandolo da parti differenti. Se un oggetto è lucido, ad esempio, il colore apparente cambia molto a seconda della parte da cui lo guardo. Certo. E ricostruire le caratteristiche di riflettanza, tecnicamente parlando, superficiali, insomma, l'aspetto superficiale, diciamo così. Sì, è un problema che è grosso modo della stessa complessità del ricostruire la forma stessa. Ecco, tutto questo naturalmente potrebbe avvenire arrivando a ricostruire perfettamente un oggetto senza sapere assolutamente che cos'è, e quindi poi domani potrebbe porsi un altro tema, no, di ricerca, come ma che statua è quella che ho ripreso. Però c'è un altro tema ancora più forse immediato sul quale state già lavorando, perché dopo aver raggiunto la terza dimensione state pensando, anzi state già lavorando sulla quarta, cioè il tempo. Si parla in questo caso di dati 4D. Se ci fa un esempio per capire, per cominciare. Beh, l'esempio classico è quello del monitoraggio. Io faccio acquisizioni successive nel tempo di uno stesso ambiente e voglio capire le differenze. L'esempio classico che si porta è lo scavo archeologico. Certo. Capire come ho scavato, quali sono le cose che sono cambiate da una parte, da un momento all'altro, dove sto scavando e cosa, è un tipo di informazione che normalmente veniva codificata in una procedura ragionevolmente complessa, ma che può essere semplicemente delegata all'analisi dell'evoluzione nel tempo di un flusso di dati tridimensionali. Va bene, allora grazie Paolo Cignoni. Buonasera, grazie. Prima di lasciarci vi ricordo gli Open Innovation Days a Padova dal 30 settembre al 1 ottobre, una kermesse organizzata dall'Ateneo Padovano e da Sole 24 Ore, con tanti eventi per parlare di scienza, per parlare di innovazione. Appuntamento a Padova dunque, ma ancora prima appuntamento domani sera come al solito per una nuova puntata di Smart City. Buona serata.